It's a beautiful day. It's a beautiful day. It's a beautiful day. It's a beautiful day. Porta lei, sei, non dico dove ti porto se lo farei, hey, non ti sembrerebbe un sogno, un altro stile, un altro accordo, no dal do al si, sì, ma dalle mie radici, fra, mo c'ho tra le dita un universo, sto pezzo, ground, lord e teso, metto un muro tra i fake e gli MCs, e sì, non voglio il prego per sti lavori di routine, credo che nessuno li abbia ancora fatti, perché il rap va, ma all'indietro, il tempo passa, scorrono le ore ed è già tardi. Devi solo prendere i quarti e frantumarli come un campione, essendo tu il campionatore. Ora segua i miei compagni, ora segua i miei compagni. Sei il mio universo fra le dita quando ti accarezzo il volto, come quando rollo uno spin e mi sfogo contro il mondo, come quando ti guardo negli occhi. Sei il mio universo fra le dita. Sei il mio universo fra le dita quando ti accarezzo il volto, come quando rollo uno spin e mi sfogo contro il mondo, come quando ti guardo negli occhi. Sei il mio universo fra le dita, yo. Sono l'universo fra le dita, mi sta butta trita. Un altro giro, un'altra tipa, un'altra vita. Notte in bianco per il rap fare mattina, prima della moda, quando ancora era disciplina. Lascio la firma come un writer sopra un treno, come un DJ quando screccia loop alieno, come un breaker che s'allena quando piove, o come un rapper che sui testi butta il cuore e si commuove. Voglio essere vero, non chiedo altro, non leggo il culo a nessuno. Per guadagnarmi un palco non faccio il personaggio, non copio, esprimo e scrivo torrenti densi come il Nilo, aspiro il riflesso di ciò che vivo, fino a ritrovarmi solo contro il mio destino. Ci do l'ansia, comprimo tutto in uno spino, solo positive le vibes che assimilo da Sirio, nel silenzio della notte fino all'ultimo respiro. Sei il mio universo fra le dita quando ti accarezzo il volto, come quando rollo uno spino e mi sfogo contro il mondo, come quando ti guardo negli occhi. Sei il mio universo fra le dita. Sei il mio universo fra le dita quando ti accarezzo il volto, come quando rollo uno spin e mi sfogo contro il mondo, come quando ti guardo negli occhi. Sei il mio universo fra le dita, yo. È la distanza che divide le persone, è la mancanza che deprime ogni emozione, che la sopprime, insomma in sostanza la ragione qui contrasta le parole. E se non basta aggiunge il suo bastone fra le ruote, io non voglio la ragazza facile, la voglio fragile, che quando piange la trattengo fra le mani, man. Cosa aspettavi te quando guardavi le stelle? E perché forse un po' cercavi me. Sei la donna più importante, quella che ho messo come colonna portante. Ti sto sognando in minigonna senza mutande. Silenzio, lascia che dormi. Ma importante intanto che un joint riparte. It's good, it's good. It's so good, man. It's so. Se il mio universo fra le dita quando ti accarezzo il volto, come quando rollo uno spin e mi sfogo contro il mondo, come quando ti guardo negli occhi. Se il mio universo fra le dita. Se il mio universo fra le dita quando ti accarezzo il volto, quando ti accarezzo il volto, quando ti guardo negli occhi, sei il mio universo fra le dita.